Ti piace soffrire, perciò lo cerchi stronzo. Poi ti lamenti se ti ha tradita o picchiata quando è sbronzo. Torni da me solo per parlarmi del tuo scazzo, sfogarti col tuo amico, ma io ti amo cazzo. E se non l'hai capito, non ti vorrei ferire, ma da oggi sarai anch'io uno stronzo, ti farò soffrire. Permettimi di farti perdere la testa, dammi una possibilità, una sola, soltanto questa. Dopodiché mi metterò da parte come l'anno scorso, lasciando che la tua vita faccia il suo corso, rispettando il tuo passato, i tuoi dolori, le scelte sbagliate, i tuoi rancori. Ma ciò non cambia il fatto che ti vorrei felice, essere al tuo fianco, curare ogni tua cicatrice. Per questo sono disposto ad aspettarti, per amarti, stupirti e rispettarti. Amarti e rispettarti. Una storia sbagliata con una stronza è come mal di testa dopo una sbronza. Passa in fretta e non è mai abbastanza, è come fare sesso dopo mesi di astinenza. Di nuovo soli, rinchiusi in questa stanza, ci siamo chiariti, scuse di circostanza. A mente fredda emetto la sentenza, sul fondo ogni rapporto ha la data di scadenza. Se chiudo gli occhi e ripenso a chi c'era ieri, resto sveglio in compagnia di cattivi pensieri. Ho superato molte guerre, ma quella più dura è quella che dovrò combattere. La mia paura è l'altra faccia della luna, quella nascosta, quella che non mostri a tutti la tua faccia tosta. Sei un promemoria delle mie ostioni, se penso a te rivedo mille delusioni. Non lascio trapelare nulla, l'ultima lacrima l'ho versata quando era ancora nella culla. Ma dentro piango mentre mi danno pacche sulla spalla, e grazie a me se resto a galla, e grazie a me se resto a galla. Una storia sbagliata con una stronza è come mal di testa dopo una sbronza. Passa in fretta e non è mai abbastanza, è come fare sesso dopo mesi di astinenza. Di nuovo soli, rinchiusi in questa stanza, ci siamo chiariti, scuse di circostanza. A mente fredda emetto la sentenza, sul fondo ogni rapporto ha la data di scadenza. Forse è la somma di milioni di coincidenze che ci illude, ci dà false speranze, che ci porta a fare scelte su quello che facciamo, le strade da prendere, quello che decidiamo. Ma di sicuro quello che vogliamo non sempre conta, quello che vogliamo non è sempre ciò che conta. Conta averci provato, di sicuro avremo sbagliato, ma si sbaglia sempre. Vivo la vita come volevo, lo sto facendo a modo mio e sono vivo. L'amore è come un tatuaggio, fa male ma ci piace, lascia un segno indelebile che non ci darà pace, che non ci darà pace. Una storia sbagliata con una stronza è come mal di testa dopo una sbronza. Passa in fretta e non è mai abbastanza, è come fare sesso dopo mesi di astinenza. Di nuovo soli, rinchiusi in questa stanza, ci siamo chiariti, scuse di circostanza. A mente fredda emetto la sentenza, sul fondo ogni rapporto ha la data di scadenza. Una storia sbagliata con una stronza è come mal di testa dopo una sbronza. Passa in fretta e non è mai abbastanza, è come fare sesso dopo mesi di astinenza. Di nuovo soli, rinchiusi in questa stanza, ci siamo chiariti, scuse di circostanza. A mente fredda emetto la sentenza, sul fondo ogni rapporto ha la data di scadenza.